Abbiamo parlato subito prima della viabilità con Ernesto Belisario, abbiamo parlato del FOIA, il Freedom of Information Act, appunto. Abbiamo promesso che ne avremmo parlato con un esponente politico che si occupa di queste cose, poi quando avremo occasione nelle prossime settimane torneremo a parlarne appena ospiteremo qualcuno, perché ci sembra una battaglia importante. E dunque abbiamo con noi Antonio Palmieri, che è responsabile internet del PDL, del Popolo della Libertà, ed è un deputato. E alla Camera, Palmieri, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E dunque, che cosa facciamo? La facciamo un'iniziativa di legge su questo oppure no? Ma io mi sono impegnato l'altro giorno, in occasione della giornata della trasparenza, anche a lavorare perché questo tema sia parte del nostro programma per le prossime elezioni politiche. L'iniziativa legislativa credo che sia già in atto, se poi andrà in porto in questo tormentato e complicato finale di legislatura, credo onestamente sia un po' difficile, però non è stato per me, devo dire, un grande sforzo prendere questo impegno, perché questo comunque è un'iniziativa, è una prova battaglia, non mi piace perché evoca altre cose più importanti, però diciamo è un'iniziativa che è assolutamente bipartisan. Pensa che il governo se ne dovrebbe fare promotore, lo stesso Ma il governo? governo credo che innanzitutto dovrebbe continuare quello che è già è stato fatto in questi anni su questo versante. Cito solo un esempio per tutti. Il 13 ottobre dell'anno scorso, Brunetta inaugurò il portale italiano degli Open Data. E è un'esperienza che è andata avanti, come dice il nome Open Data, è andata, continua. Dentro quell'esperienza ci fu un interessante concorso per le app che aiutassero i cittadini a utilizzare concretamente i dati della pubblica amministrazione, perché poi questo è anche un tema saliente. E se non si aiutano i cittadini a capire l'utilità di disporre di questi dati, è poi inutile renderli disponibili. Il concorso è stato premiato il 22 maggio di quest'anno, ci sono 22 app che hanno ricevuto un premio. Se oggi andate sul sito degli Open Data italiani troverete oltre 100 applicazioni disponibili. Lo stesso sta avvenendo in Lombardia, qui nella nostra regione, per cui c'è un percorso in atto che va secondato, va valorizzato il positivo che c'è da parte di tante pubbliche amministrazioni. Certamente c'è ancora molto da fare. Questo lo dico perché, come ho detto l'altro giorno, fatta la legge, non fatto l'inganno, ma comincia il lavoro. Ma c'è, come dire, una mentalità che è già diffusa, che va assecondata. Quindi da questo punto di vista, e termino, credo che il governo dovrebbe continuare l'impegno già fatto, investendo su una valorizzazione appunto del positivo, valorizzando e incitando soprattutto i dirigenti della pubblica amministrazione a darsi da fare in questa direzione. Allora, stiamo parlando di trasparenza, e quindi tocchiamo un tema assai spinoso in questi giorni, che è quello, dei bilanci. Abbiamo visto la battaglia, chiamiamola così, non le piace la parola battaglia, però più o meno è stato questo, che si è scatenata intorno al tema dei bilanci dei gruppi parlamentari. Inizialmente non era passata l'ipotesi che i bilanci dei gruppi parlamentari fossero verificati da delle società indipendenti di revisione, ipotesi che successivamente è passata. Bisogna dire che in quest'ambito forse basterebbe addirittura, o comunque sarebbe molto importante, se i bilanci dei partiti, così come quelli dei gruppi parlamentari, fossero banalmente pubblicati su internet. Il Partito Democratico già lo fa. E in realtà da qualche tempo, dall'anno scorso addirittura certificato il bilancio del PD, dalle vostre parti Dalle nostre invece. parti, il nostro bilancio è depositato alla Camera come prevedeva l'antica legge. Però ammetterà che è un sistema di consultazione non proprio No, semplicissimo. assolutamente, però dall'altro lato, come prevede la nuova legge approvata, sarà reso disponibile nel nostro sito. Noi stiamo lavorando in realtà a un'iniziativa un po' più vasta sulla trasparenza, per meglio dire, sul finanziamento trasparente al Popolo della Libertà, proprio a causa della nuova legge, che come noto è stata approvata ai primi di luglio di quest'anno e che quindi taglia drasticamente il finanziamento pubblico, però e, tra molte virgolette, obbliga ciascun partito a dotarsi di un sistema di fundraising nuovo e diverso. Allora, noi stiamo lavorando a un'iniziativa su questo tipo che si poggia su internet, ma non solo. Faremo l'idea di fare un pacchetto unico un po' più avanti. Nel frattempo, che tempi prevede? Campagna elettorale. In campagna elettorale pubblicherete perché bisogna, secondo me c'è una siccome è parte di un progetto complessivo, come dicevo. E accanto a questo, tornando sulla polemica dell'altro giorno, la nuova legge appunto già prevede la pubblicazione nei siti internet dei partiti e la validazione esterna. C'è stata un po' di furbizia, insomma, da parte di qualche esponente politico che ha pensato di lucrare voti usando questa iniziativa. Io mi limito a dire, l'ho scritto anche nei miei spazi online, nel mio blog, nel mio spazio Facebook, ho rilanciato nel mio tweet, insomma, che sicuramente non è, diciamo così, tra molte virgolette, gradevole partire dal principio che per il fatto che uno fa politica per forza un ladro. Questo è inaccettabile. Allora, dentro questa cosa ci stava una presa di posizione iniziale condivisa dall'intero ufficio di presidenza della Camera che diceva lo certifica l'ufficio della Camera, lo certifica la Corte dei Conti, è sufficiente. Dopodiché in questo contesto è evidente che non è sufficiente, ma io penso che sia doveroso rimarcare questo principio, cioè che non è pensabile di poter applicare la categoria dei ladri, dei farabutti a tutti coloro che sono nelle istituzioni. No, questo è assolutamente vero. Tra l'altro testimoniamo che l'onorevole Palmieri è venuto nei nostri studi in metropolitana e ha anche esibito biglietto, quindi insomma... Biglietto timbrato, perché potevo esibire anche un biglietto non timbrato. Biglietto timbrato. È difficile entrare nella metropolitana di Milano senza timbrare il biglietto, comunque così è. Però... Al di là di questo ragionamento generale, che pure è condivisibile, là è una questione di trasparenza, come mai non ci avete pensato prima? Ma c'era, ripeto, la legge esistente prima prevedeva la pubblicità, tant'è che tutti i suoi colleghi ogni anno fanno regolarmente l'articolo però sul bilancio del partito. Però non è che impediva di metterlo su internet. Sì, ma semplicemente non ci si pensa perché normalmente... Non è un argomento di comunicazione politica né di campagna elettorale, lo è diventato e lo diventa nel momento in cui il contesto mediatico e di conseguenza politico va in una certa direzione, ma anche negli anni scorsi questa domanda un anno fa non avrebbe neanche fatta probabilmente, cioè c'è proprio un contesto di un certo tipo, antipolitica, tutto quello che volete, e devo dire dall'altro canto però c'è anche una maturazione. Perché anche tutto il tema della trasparenza, del foglio, eccetera, eccetera, è anche quello conseguenza di una maturazione. Se andiamo a vedere, appunto, un anno fa è stato inaugurato il portale Open Data, come dicevo prima, ma l'anno prima non c'era. Si tratta, come in tutte le cose della vita, che avvengano a compimento dei processi, delle consapevolezze che devono essere diffuse e sono sane, cioè fuori di dubbio questo. Benissimo, la ringraziamo e naturalmente vi aspettiamo alla prova in campagna elettorale, vogliamo vedere il bilancio online e poi la riospiteremo sicuramente perché vogliamo capire come si muove anche il PDL dal lato della campagna elettorale via web. Noi siamo ovviamente in campagna elettorale permanente, sul web, perché il web è per definizione il luogo della campagna elettorale permanente. Chiarissimo, grazie ad Antonio Palmieri che trovate anche su Twitter, è nome e cognome il suo username, quindi molto semplice, ha un blog se non erro, antoniopalmieri.it, antoniopalmieri.it, e ho la pagina Facebook, e ha la sua pagina Facebook, il canale YouTube, su Google+, insomma cerco Perfetto. Di essere trasparente io per primo, perché altrimenti non potrei parlare di trasparenza. Perfetto, quindi potete, come avete sentito, contattarlo come volete, grazie Palmieri, buona giornata. Arrivederci.